Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Noi ci troviamo in difficoltà per un problema che, residendo in un palazzo storico a Lucca, vincolato dalla sovrintendenza, abbiamo dei problemi nell'eseguire un ascensore. Ovviamente il motivo dell'ascensore è legato alla presenza di una persona con una disabilità grave che abita ai piani alti del palazzo. Sono disabile al 100% e ho una situazione difficile. Ho due minori e mia moglie. Siamo in una casetta in campagna, una casetta di legno. Adesso, però, per dire, una difficoltà che ho, per esempio, è quella di dover adattare la macchina alla guida per disabili, che per me è una cosa impensabile per quanto riguarda poterci riuscire. Il mio problema questa mattina è che il giorno della vigilia di Natale, improvvisamente, telegiornali, giornali, organi di informazione si spenderanno nel far vedere le persone che vivono marginalmente rispetto il ventre grasso della società. Ci saranno volontari che vanno in giro a portare la cioccolata alle persone senza fissa dimora, si andranno a fare documentari negli ospedali, nei luoghi di ricovero, negli ospizi, quindi tutti parleranno degli ultimi della società. Io mi sento in coscienza di poterne parlare anche questo giorno, giorno in cui normalmente mi andrebbe di parlare di tutt'altra cosa, perché ormai sono mesi che stiamo portando avanti una iniziativa che ci coglie attenti per tutto l'anno, in qualsiasi giorno, rispetto ai problemi soprattutto dei disabili. Disabili in senso lato, in senso vasto. Il disabile non è soltanto colui che viene rappresentato dal simbolo della carrozzella. Disabile è la persona che comunque non ha tutti gli strumenti a disposizione per vivere nella società esattamente come la media delle persone è convinta perlomeno di vivere. Quindi questa mattina mi dedicherò con un senso ancora più profondo e ancora più partecipato a confermare il fatto che anche noi siamo disabili. Anche noi disabili è un'iniziativa di Radio 24, lo ricordo, che è iniziata tempo fa e sta portando comunque una sorta di porta aperta verso tutte le persone che hanno un problema di inserimento, di convivenza, di riconoscimento delle loro difficoltà. Ricordo il numero verde 800 002400, che è il numero verde che stanno usando le persone che vogliono segnalarci delle situazioni. Noi le situazioni poi le riportiamo alla radio, le raccontiamo e, se possibile, le poniamo di fronte alle istituzioni che dovrebbero occuparsene o possono fare qualcosa. Abbiamo anche una mailbox, anche noi disabili, @radio24.it. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Volevo segnalare, io ho un figlio con sindrome di Down di 26 anni che prende la sua pensioncina, firma, c'è il codice fiscale, vota, eccetera, però ogni volta che chiedo a nome suo un prestito, cioè lui che lo vorrebbe per poter fare un viaggio, cosa ci viene negato, cioè non capisco, lui ha la sua pensione fissa e quindi può pagare questa rata, perché non glielo erogano questo prestito? Io a volte sento la pubblicità, dice anche le persone di 80 anni faremo questo prestito, eccetera eccetera, non ho capito, mio figlio ha 27 anni, mi auguro una lunga vita, e invece a uno di 80 anni che non si sa, insomma, viene erogato, però è diversamente abile e non glielo danno questo prestito. Grazie. Il primo caso è un caso che in realtà non abbiamo scoperto noi, perlomeno non abbiamo scoperto nell'ambito di un programma di Radio 24, è un caso che ho scoperto io personalmente, perché si tratta di una persona che considero collega. Alessandra è la madre di Giacomo, che è un ragazzo autistico. È un ragazzo autistico che ha più o meno la stessa età di mio figlio, un ragazzo autistico che conosco, noto, ancora più noto in questi ultimi giorni perché è apparso alle cronache di molti giornali, anche testate nazionali. Il caso di Giacomo è un caso tipico di una persona che ha una disabilità di tipo psichico, è un neurodiverso, come suol dirsi, e non ha lo stigma esteriore della persona disabile. È un ragazzo bellissimo, forse un po' stralunato, forse se proprio uno lo guarda attentamente ha qualche comportamento un po' strano. Ma la gente, siamo convinti, deve abituarsi che esiste anche una necessità di comprensione, di aiuto e di inserimento a società per persone che non necessariamente hanno un cartello addosso con scritto disabile. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Allora, raccontaci la tua storia, visto che ancora ai microfoni Radio 24 non l'hai mai raccontata, e poi vediamo quali sono stati gli sviluppi. La nostra è una storia che parte, diciamo, dalla nascita di Giacomo e poi approda oggi alle cronache. Purtroppo io non avrei voluto, perché proprio era l'ultima dei miei pensieri quello che saremo poi apparsi sulle pagine dei giornali, ma è stato necessario denunciare un episodio grave che gli è capitato, come forse molti già sapranno. Mi è capitato a Giacomo lunedì pomeriggio passeggiando per le vie del centro. È stato cacciato da un bar nei pressi di Fontana di Trevi solamente perché aveva bisogno di andare al bagno e la barista non gradiva la presenza di Giacomo e dell'assistente, che era entrato momentaneamente nel bagno solo per verificare le condizioni igieniche e la presenza di carta igienica. Ricordiamo che i ragazzi autistici, pur anche autonomi, non tutti sono autonomi, ma anche quelli un po' più autonomi, nei casi medi, medio-gravi, hanno bisogno sempre di un'occhiata, di un controllo. Diciamo, Alessandra, che un ragazzo come Giacomo, pur essendo autosufficiente, se entra in uno sgabuzzino di un bagno che non conosce, in un posto che non conosce, continuamente sporco, comunque sia, per lui può essere anche un motivo di disagio. L'assistente, esatto, per l'autistico è esattamente come il cane guida per il cieco, esattamente come la persona che spinge la carrozzina per un disabile motorio. Senza, sì, l'assistente, lo sappiate, dobbiate capirlo, anche se è un ragazzo che corre, Giacomo è un podista, corre tantissimo, è un runner, ha fatto gare, vincerà gare, questo non vuol dire che possa andare per strada senza una persona specializzata e si occupa di lui. Giacomo ha un suo educatore, una persona che lo segue sempre, una persona laureata, una persona che nella vita ha studiato per trattare soggetti con autismo. Questa persona nel bar ha chiesto gentilmente di poter usare il bagno, addirittura consumato un caffè, così la prassi ottemperata fino in fondo. Ricordo, un bar accanto alla Fontana di Trevi, il centro turistico per eccellenza di Roma. Roma esiste perché c'è la Fontana di Trevi, quindi un posto aperto al pubblico, non è andato in un paese sperduto, non sono abituati a vedere gente. Ha detto: è un ragazzo disabile, io sono il suo educatore, ha bisogno del bagno. Subito. E ha ordinato un caffè, per la precisione non l'ha consumato perché la barista non si è preoccupata di preparargli il caffè, ma di uscire fuori dal banco e a cominciare a bussare e urlare che dovevano andare via dal bar e uscire dal bagno. Luca esce e dice: guardi, a posto, il ragazzo è un ragazzo, non suo assistente, non si preoccupi, sono entrato per controllare, non siamo entrati in due per qualche tempo. Ma qual era il problema? Che pensava che una coppia gay che entrava, scusami la franchezza. No, diciamo, non mi sembra che c'era questa possibilità di equivoco. Ma questo, come ti ho già detto, sarebbe la migliore delle ipotesi, che avessi scambiati per una coppia gay. Ma in realtà lei, e Luca me l'ha sottolineato, l'aveva benissimo capito e gliel'aveva spiegato. Non li voleva. Non voleva il disabile nel suo bagno. Chiudiamo il campo da interpretazioni che inizialmente potrebbero essere state, perché poi una delle colleghe a una giornalista di Roma Today ha detto: noi non avevamo capito, non aveva capito il problema. Naturalmente si parano un po', ma insomma, ma è facile anche, ma uno può, però un attimino poi ragiona, se ti sta spiegando che la situazione è quella che è, poi come dici tu, dopo un po' si vede Giacomo che sia un bel anche ragazzo, entra in agitazione, è abbastanza attivo, si insomma, chiude le orecchie, lo vedi che entra in uno stato di agitazione, è normale. Sì, ma soprattutto se una persona alza la voce, tra l'altro, ecco, anche l'ignoranza di non capire, dire veramente che si sta infastidendo una persona che ha delle problematiche. Quindi serie. Li ha cacciati dal bar. Davanti. Li ha cacciati. E gli avventori in quel bar cosa hanno fatto? C'era, diciamo, gente seduta. A interrompere questa catena di equivoci sarebbe servito una collega della barista, bastava una che forse una già lo stava facendo, o un cliente del bar a dire: guarda che stai sbagliando, ma non ti rendi conto? Nessuno è intervenuto. Non gliene è importato nulla a nessuno, di un disagio palese. Guarda, voglio sperare che magari gli avventori del bar, che è un bar piccolino, non se ne siano resi conto e non ci sia stato il tempo. Guarda, non voglio neanche sparare a zero su tutti, però di fatto questo è accaduto. Allora, nessuno. Tu cosa hai fatto? A quel punto cosa hai fatto te? Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Ho scritto a te, al blog per noi autistici, ho scritto una lettera a Repubblica. Quindi ho fatto queste due cose insieme, ma è rimbalzato tutto subito sul tuo blog, e da lì è partita. Comunque il mondo si è accorto che esiste questo problema. Qual è stato l'esito, diciamo, di una campagna stampa, in questo caso necessaria, non per mettersi in mostra o per essere quelli che non sempre rompere le scatole? No, il mondo si deve abituare che esistono disabili che non sempre gli si legge in faccia il loro problema. Allora, innanzitutto, soprattutto l'Italia, perché con Giacomo abbiamo viaggiato molto, non abbiamo mai avuto problemi, soprattutto nei paesi anglosassoni, Nord Europa o Stati Uniti, naturalmente parliamo di Stati Uniti evoluti, ma non perché siano più sensibili, più colti, perché lì ci sono delle leggi molto severe che se non vengono rispettate sono guai, e questo lo sappiamo. Per cui, insomma, anche da amici che vivono a New York, loro basta che sentono special needs o la parola autismo e scappano. La parola autismo troneggia dappertutto, nelle riviste, anche nelle riviste, diciamo, per le casalinghe, di pettegolezzi, campagne di sensibilizzazione su cos'è l'autismo. E questo è il problema vero nostro oggi: non si sa che cos'è ancora, confondono autismo con autista, e quindi, insomma, è un problema culturale vero. Nasce un bambino ogni 68, il che vuol dire che è pieno di adulti, di ragazzi autistici. Ieri, parlando solamente con due persone, ieri in un ambiente diciamo estraneo a quelli che frequento normalmente, c'erano due persone che avevano parenti, ragazzi autistici nella propria famiglia, figli di cugini, figli di cognate. Quindi questi ragazzi esistono, i nostri figli stanno, come tu hai sottolineato più volte, nel pieno della loro vita, della loro vitalità, devono vivere come i loro coetanei, uscire, andare in discoteca, andare nei bar, frequentare i posti della società civile e rivendicare un posto degno della loro grande sensibilità e presenza. Senti, nella tua vicenda, se non ce la fanno loro, lo facciamo noi. Nella tua vicenda personale, come è andata a finire? È passata quasi una settimana. Qual è stato l'esito, comunque, di aver pestato i piedi e aver imposto l'esito questo fatto? È che ne parlano anche coloro che di autismo non, in genere non ne parlano, per cui la notizia è stata accolta con indignazione e vergogna anche da chi in genere non frequenta. Il proprietario del bar si è fatto vivo con te? Il proprietario del bar si è fatto vivo con mio marito da parte di un rappresentante, diciamo, della proprietà, per cui c'è stato un ufficiale porgere delle scuse da parte non sua proprio personalmente, e un desiderio di incontrarci per farcele personalmente, ma questo non si è verificato per ora. Vorrei dire che ci aspettavamo queste scuse un po' prima, sono arrivate dopo 5 giorni, probabilmente hanno fatto le loro, come dire, le loro indagini, hanno valutato cosa fare, perché il tantam mediatico è stato molto, diciamo, forte, la verità, Alessandra, le cui scuse non cambiano nulla, semplicemente, no, però le scuse danno l'idea che si è capito da che parte sta la giustizia e la verità. E quindi, se oggi probabilmente i baristi di Roma, ma non soltanto Roma, staranno più attenti prima di cacciare un autista al loro bar, lo dobbiamo al fatto che qualcuno ci ha messo la faccia. Grazie Alessandra, in bocca grazie al lupo, alla prossima. Grazie a te, auguri a tutti. Abbiamo ancora una volta un genitore. Mi fa piacere vedere che sono i genitori quelli in prima fila, senza aspettare che dei rappresentanti di categoria, di associazione, si prendano cura di denunciare i problemi dei loro figli. Stavolta un altro genitore è Leonardo, papà di Gaetano, che ha qualcosa da dirci rispetto ai problemi del figlio. Leonardo, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto ringrazio voi per avermi dato la possibilità di dare voce al nostro figlio. Voi dove abitate voi, Gaetano? Noi, Leonardo mi chiamo io, Leonardo. Abitiamo a Riposto, è una provincia di Catania vicino Taormina. Va bene, è un bellissimo punto posto di riferimento. Quali sono i problemi di tuo figlio, allora, di tuo figlio Gaetano? La nostra storia parte dal 2010, quando il ragazzo è cominciato, diciamo, a iniziare a andare a scuola, Noi naturalmente non eravamo preparati in questo senso, quindi non sapevamo come comportarci. Che difficoltà ha tuo figlio? Che tipo di difficoltà? Quale problema? Mio figlio ha avuto una sofferenza perinatale, cioè doveva nascere prima, invece è nato in ritardo, hanno fatto nascere in ritardo con tutte le conseguenze, quindi vive in una seggiola a rotelle con handicap abbastanza grave. Quindi adesso quanti anni ha? Quanti anni ha tuo figlio? Il ragazzo ha 20 anni. Ha 20 anni. Come passa la sua giornata? La sua giornata la passa in atto a casa, perché visto che le istituzioni non ci danno nessun aiuto, anzi, dobbiamo essere noi a stimolare le istituzioni affinché loro ci diano una mano. Quindi il carico maggiore, come spesso accade, di un ragazzo adulto con handicap è sulla famiglia. Allora, fermiamoci soltanto un secondo, Leonardo, che diamo la linea alle informazioni del traffico e riprendiamo con te fra un istante. Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Vorrei segnalare che su un marciapiede a Spinaceto, un quartiere di Roma, davanti alla biblioteca, c'è una fontana che blocca praticamente il passaggio a chiunque abbia una disabilità. Non si può passare di là, non c'è neanche uno scivolo per accedere alla strada. L'ho segnalata in tutti i modi a tutti, ma l'indifferenza è grandiosa. Vivo a Principina a Mare, in provincia di Grosseto. Le strade qui a Principina a Mare sono piene di buchi e di avvallamenti, per cui un disabile, che è mia moglie, disabile solo alle gambe, però non può camminare, insomma, può fare due passi, sta sulla sedia a rotelle praticamente. Non possiamo uscire, non può uscire, perché se esce cade, si ribalta. Le strade devono essere tutte asfaltate. Riprendiamo anche noi disabili in versione di Vigilia di Natale. Ricordo il numero verde 800 002400, la mailbox anche noi disabili @radio24.it. Queste sono le due porte d'entrata per tutte le persone che avessero un problema legato a una loro disabilità, di un loro familiare, o a un problema comunque di accettazione, di inclusione, di lavoro o di serena possibilità di una vita dignitosa da parte di persone che hanno un problema di disabilità. Mi ero interrotto con Leonardo, papà di Gaetano, ragazzo disabile di 20 anni, di un paese vicino a Giarre. Allora, Leonardo, abbiamo detto figlio di 20 anni, figlio gravemente disabile, con una disabilità sia di tipo cognitivo sia di tipo, diciamo, motorio. Esatto. Qual è il problema principale rispetto, oltre al fatto che naturalmente dovete gestire una persona con parecchie difficoltà? Il problema principale è che noi ci dobbiamo impattare con le istituzioni, che purtroppo non ci danno tutto quello che di norma tocca a questi ragazzi, che sono diversamente abili. Per cui noi siamo stati costretti a pagare una signora a spese nostre, un assistente, per poter garantire a Gaetano di andare a scuola. Ma perché l'assistente che doveva passarvi normalmente ai termini di legge? L'assistenza doveva passare alla provincia, che ora si chiama città metropolitana. Sì. Però ha mandato per l'handicap grave di Gaetano, loro avevano mandato 1 a 4, cioè un assistente per ogni 4 disabili. Questo è impossibile. Cioè, per Gaetano, lo faccio per far capire agli ascoltatori. Un assistente, certo, può spingere 4 carrozzine con 4 persone. Cioè, è assurdo. Può occuparsi di 4 persone. Che è un paradosso ridicolo. Se no io e mia moglie non ce la facciamo. Quindi si figuri come può un ragazzo, anche se sia giovane, a gestire una situazione di questo genere. E quindi noi siamo stati costretti ad adire alle vie legali, perché la provincia, la città metropolitana, non ha voluto assolutamente. Ma perché qual era il problema? Cioè, non abbiamo i soldi, non abbiamo il budget. Sì, non hanno i soldi, ma non esiste per queste ragazze che non si hanno i soldi. I soldi ci sono e vengono invece utilizzate per altre cose. Ci sono anche dei ragazzi, diciamo, in età ancora di obbligo scolastico, quindi ancora per loro ancora più, certo, più importante. E io ho iniziato allora con i comuni prima di Terre di Posto e ora sono con la provincia. I comuni di Terre di Posto c'era una diatriba per loro, per chi doveva pagare le spese. E intanto pagavate, e quindi, voi naturalmente, nel frattempo non è che si congela la vita di un ragazzo. Non è che si congela, dico, la vita di un ragazzo, che dice nel frattempo che decidono, intanto cosa ne fate? Quindi dovete pagare. Il problema è questo, noi e anche la nostra difficoltà, perché non solo noi dobbiamo avere la problematica di Gaetano per seguirlo in tutto e per tutto, ma anche dobbiamo impattare con le istituzioni per poter garantire a Gaetano di frequentare la scuola, che fra le cose è contentissimo. Il ragazzo già si vede anche quando torna a casa che è felice di... Certo, è una vita gratificante, perché è un'occasione di socializzare, sennò che fa a casa, certo, da solo? Certo, il ragazzo fra le altre cose... Tutti i compagnetti della scuola vogliono bene, gli hanno fatto anche il regalo a Natale, insomma. Quindi quella è la sua vita, non si può negargli la sua vita. Certo, e invece io sono stato costretto a tenerla a casa perché poi non potevo più sostenere le spese per poter garantire l'assistente. Quanto vi costava pagare un assistente? L'assistente costa in zona 700-800 euro. Quindi è uno stipendio che deve accollarsi una famiglia. Certo, e non solo, ma anche i soldi che danno a lui bastano, per cui... Allora, voi avete avuto una vicenda, diciamo, legale abbastanza complicata, siete ricorsi al TAR, c'è stato un ordine sospensivo, poi una sentenza che conferma l'assistenza con rapporto 1-1 fino alla fine dell'anno, poi l'anno nuovo ricominciato la provincia ritorna sempre alla carica, insomma, sì, fa un braccio di ferro con le persone più deboli, cioè, esatto, alzano la voce e mostrano le palle con le persone che in realtà avrebbero bisogno di essere protette. Questa è la sintesi. Esattamente, e non solo, l'avvocato dice, ma scusa, non è che perché il giudice ha messo l'anno in corso, che era 2014 e 2015, toccava 1-1, quello che vale è il principio, il ragazzo ha una disabilità ad un certo livello, quindi va naturalmente seguito con un assistente 1-1, non ci sono forti dubbi, quella è una patologia irreversibile. Scusi, ma allora mi faccia capire, Leonardo, c'è stato, sì, addirittura un giudice che ha espresso una sentenza, sì, che intimava alla provincia, sì, di dare l'assistente rapporto 1-1 ai ragazzi, la provincia ha fatto finta di niente, anche di fronte alla sentenza di un giudice. Sì, praticamente no, noi abbiamo fatto un ricorso, no? Urgente, perché in questi casi si chiede l'urgenza, perché il ragazzo necessità di andare a scuola e quindi non ci può andare, quindi c'è un danno, no? Certo. Abbiamo fatto questo ricorso, il giudice ha dato immediatamente la sospensiva, che è un decreto cautelativo cui praticamente annulla la lettera della provincia, della città metropolitana, e gli intima di mandare subito l'assistente. E quello che ho detto io, un giudice dice alla provincia, assolutamente non ci sono, sì, santi, dovete dare a questo ragazzo la possibilità di vivere una vita, altrimenti è una tortura la sua vita, state torturando la provincia, invece non fa finta di niente, completamente un decreto cautelativo da parte del giudice, e ha aspettato per fare questo il definitivo, cioè la sentenza definitiva, che è arrivata il 17 di dicembre. Oh, è vero che due genitori hanno anche denunciato ai carabinieri la provincia proprio per mancanza di esecuzione? Mia moglie con un'altra signora sono andate anche dai carabinieri, che sono state disponibilissime e molto sensibili a queste cose, e hanno fatto una cautelativa, una citazione alla provincia. Come mai non aveva provveduto ad eseguire una richiesta ben precisa, fatta un ordine fatto dal giudice? Quindi adesso diciamo che fino a giugno ce la siete coperti adesso, da questo punto di vista? Sì, a questo punto di vista siamo a giugno, siamo coperti, e dal 7 di gennaio Gaetano finalmente andrà a scuola. Allora, due punti su questa vicenda mi sembrano molto singolari, per noi degni di riflessione. Primo, fino a giugno coperti, ma un ragazzo di 20 anni ha un'aspettativa di vita enorme, dopo che succede? Se per ogni volta bisogna mettere su una fatica così grossa, carabinieri, TAR, magistrati, sentenze, per avere uno straccio di assistente. Se della città metropolitana continua in questo senso, siamo costretti di nuovo ad andare alle vie legali. Senta, ma lei quando parla, quando parla di città metropolitana, di provincia, sì, è un ente astratto, ma chi è la, sì, persona in realtà che bastava che avesse messo una firma perché voi aveste risolto questo problema, che si accanisce in maniera così, così forte nei confronti di una persona così debole? Questo quello mi che fa... ha firmato la lettera è il dottore Schilirò, che non lo so se è capo dell'economico finanziario, non lo so, quello che si occupa, diciamo, della situazione finanziaria dell'ente. Ma voi avete mai parlato con qualcuno? Avete mai visto in faccia queste persone? Gli avete spiegato qual è il problema? No, noi il preside della scuola li ha convocati, però non sono venuti a una riunione con i genitori. Io capisco tutti i problemi che può avere di gestione finanziaria, ma mi sembra che ci siano delle priorità. In un paese come il nostro, ma... in cui i soldi escono da tutte le parti per le cose più banali, almeno assicurare a un cittadino, perché è un cittadino suo figlio, visto che lei è una famiglia regolarmente iscritta a tutti i registri, che penso che paghi sicuramente le tasse, se no starebbe qui a parlare con me. Quindi, evidentemente, perché suo figlio non aveva la dignità di andare a scuola? Perché poi questo problema può essere... Tanto più che un cavillo burocratico non può torturare una persona, per un ragazzo, dottore, disabile. Ma ci sono limitazioni alla spesa per queste cose. Per queste cose, le cose, i soldi devono uscire da tutte le parti. Non ci sono limitazioni alla spesa per una cosa di queste. Perché... è assurdo che loro fanno, che si accaniscono quando un disabile. Si parla dei livelli essenziali di assistenza. Cioè, una persona senza quelli non vive. È come dire, una persona la costringono a non mangiare. Immaginate una persona normodotata, tipica, a cui non può né mangiare né bere, cioè, no, tu stai chiuso a casa e, non mangi, e muori di fame. È la stessa identica cosa. Esattamente. Vabbè, siamo contenti che perlomeno con tanta rabbia siete riusciti a ottenere una piccola dilazione. Vediamo se il fatto che ne abbiate parlato oggi a una radio nazionale riuscirà a far capire ai signori della provincia di Catania, anzi della città metropolitana, che in realtà con persone deboli come appunto Gaetano non si può assolutamente far prevalere la burocrazia su quella che è la dignità di vita. Grazie. Ci è arrivata una lettera scritta da un signore, dice: vi scrivo in qualità di membro delegato del Comitato Nazionale Idonei Disabili, che è un comitato che si prefigge la tutela dei diritti di quelli che sono risultati idonei in concorsi pubblici banditi in ossequio a una legge che abbiamo, civilissima, la 6899, a cui però non viene data abbastanza voce. Antonio Sagliocco, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti, come sta? Tiriamo avanti in questa giornata che si presuppone debba essere una giornata di tranquillità, ma non sempre così per tutti. Allora, mi faccia capire, qual è il suo mestiere? Lei, le persone che hanno diritto di lavorare ai sensi di una legge e però se ne stanno a casa, cerca in qualche maniera di far capire perché se ne debbano stare a casa, o mi sono sbagliato? No, allora, il problema è questo. Io cerco di vorrei far capire alla mia controparte, cioè in questo caso è un ente pubblico, che noi abbiamo dei diritti per legge e che ogni volta questi diritti vengono calpestati. Facciamo qualche esempio. Antonio. Esempio, Comune di Roma, città metropolitana, Comune di Roma, Roma capitale. Lei sa quanti disabili ci sono in carenza di organico? Circa 300. 300 disabili. Che potrebbero essere assunti. Sì, perché c'è una graduatoria, signor Nicoletti. C'è una graduatoria che ci sono in graduatoria 190 persone. Adesso, se li vuoi assumere, li vuoi prendere da quel concorso, oppure fare le liste provinciali della città metropolitana. E di tutti questi perché non vengono assunti? Allora, ma adesso ultimamente abbiamo parlato con il Giano, una persona, devo dire, che si è mostrata molto favorevole al dialogo. Sì, però in questo è un momento che diciamo che il Comune di Roma è piuttosto fluttuante, le istituzioni romane in questo momento. Il problema generale, adesso lo riassumeremo per sommi capi, è un problema filosofico, teorico, oggettivo, nel senso c'è una legge che prescrive, anzi obbliga, l'assunzione di una quota parte di disabili, però al dunque, quando in realtà dovrebbero essere assunti, nessuno li prende, perché molti pensano che è meglio, visto le lungaggini burocratiche, pagare le sanzioni, aspettare, vedere, piuttosto che prendere una persona che avrebbe diritto di lavorare, ma che naturalmente necessita di maggiore tutela, e quindi se ne fregano. A tra un istante, andiamo al traffico, poi continuiamo con Antonio. Ma Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Io chiamo da Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno. Mia moglie è una disabile affetta da SLA. Noi praticamente abbiamo un posto disabile assegnato, diciamo, nei pressi di dove abitiamo. Praticamente troviamo il posto occupato da persone non disabili, mia moglie, 2-3 volte al giorno. Ogni volta siamo costretti a chiamare la polizia locale, ci siamo rivolti all'amministrazione comunale, a tutte le autorità possibili e immaginabili, continuano ad ignorarci, addirittura l'amministrazione comunale non ha neanche tracciato le linee gialle per delimitare il posto disabili, in quanto dice che non poteva imbrattare la pavimentazione, ha solo messo esposto il cartello per disabili, che chiunque parcheggia la risposta ogni volta che arriva dice che non l'aveva notato. Ecco, riprendiamo allora con il signor Antonio Sagliocco, che ci ha scritto proprio perché deve darci qualche elemento concreto, reale, che deriva dalla sua esperienza rispetto a quello che è un problema grossissimo, ancora mai affrontato con sufficiente fermezza nel nostro paese. Ritorniamo al problema. Allora, vediamo se ho detto giusto. Esiste una legge che prescrive l'obbligo da parte di aziende, di istituzioni, soprattutto istituzioni pubbliche, di assumere una quota dei loro dipendenti attingendo da cosa? Delle liste di persone disabili che vengono fornite, o in generale dare dei posti a persone con disabilità? Allora, le maniere sono due per avere personale disabile: o ci si reca presso la città metropolitana, che ha soprattutto nel comune di Roma c'è un elenco, c'è un ufficio che si chiama SILD, sì, e proprio per essere inserito in queste liste speciali, in cui ci si reca, ci si iscrive, superato naturalmente la maggiore età. Questo vorrei far capire, anche disabili che sono stati certificati che comunque possono svolgere delle funzioni, certo, professionali, chiaro. Certo. Sì, sono idonei, sono persone che possono lavorare, sì, non è che abili a lavorare. Guardi, io gli dico, non è che uno deve fare un atto di carità e prende una persona, poverino, ma altrimenti. Ma l'atto di carità No, no, obbligo di legge, non ci sono. Ci sono plurilaureati, ci sono ragazzi capacissimi. È questo che mi fa arrabbiare, signori Moretti. No, ma lo sto capendo. Quindi ci sono queste persone che potrebbero lavorare e hanno diritto di lavorare e si è obbligati ad assumere. Perché tergiversano? Come tergiversano? E cosa pagano quando tergiversano? Perché... Allora, quando tergiversano, è un privato, devono pagare una multa. E preferiscono pagare la multa piuttosto che prendere il disabile. Sono degli stupidi, perché noi siamo capaci. E la cosa... Sì, però scusi Antonio, voglio per gradi. Mi corregga se ho detto una cosa sbagliata. Preferiscono pagare una multa perché per loro pensano che per il loro profitto sia meno grave pagare una multa che assumere un disabile. Esattamente. Sono stupidi, perché non è che si caricano un peso morto. È l'unico termine che si può dire, perché altrimenti... Però sa, lo dico con esperienza, ho avuto a che fare in passato con capi del personale in aziende in cui lavoravo, e mi ricordo, io avevo la responsabilità, diciamo, di assumere delle persone, e chiedevo: prendeteli da queste liste. Fra l'altro era una persona che conoscevo, mi ricordo, molto bravo, svolgeva un lavoro informatico. Disse: no, ma siamo matti, lascia passare tempo, paghiamo una multa, chi ce ne importa. E parlo di una grande azienda pubblica, quindi evidentemente questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento diffuso e condiviso, però limaccioso, tenuto sotto traccia, non se ne parla. Ma l'ordine di scuderia delle grandi aziende è dire: lascia perdere, paghiamo la multa che è meglio. Io la seguo tanto, e lei nelle prime puntate parlò di quel ragazzo che era affitto da Asperger. E infatti è stato assunto poi alla fine, uno intelligente l'ha assunto. Questa è la cosa bella, che un ragazzo possa essere assunto, che produca, sentirsi a casa, disoccupato, che è stato... È una cosa bruttissima. Senta, ma mi faccia capire, qual è il problema? Sono troppo basse le multe, quindi se la cavano con una piccola sanzione e scavallano il problema. 28 euro, 30 euro al giorno. Signor Antonio Sagliocco, vediamo di toccare a fondo quello che secondo noi è il problema grave. Allora, c'è una legge in Italia, la 6899, che prescrive che una quota dei dipendenti di aziende private pubbliche debba essere coperta da alcune liste che forniscono manodopera abilitata a lavorare disabile. Però se un imprenditore privato non assume queste persone, quindi non ottempera una legge, paga 30 euro al giorno di multa. La maggior parte delle persone paga la multa, 30 euro al giorno, però non c'ho la rottura di scatole da avere un handicappato in azienda. E sbagliano perché molte volte, soprattutto per certi lavori, lavorano anche meglio degli altri lavoratori. Esatto. Parlo dei lavori. Ecco. Se però la cosa più grave è un ente pubblico, quindi cosa pubblica, quindi siamo noi, che non tempera a questa legge, non succede nulla, perché la multa dovrebbe essere addebitata al dirigente responsabile, ma col piffero nessuno si prende questa responsabilità e quindi va a finire, diciamo, nel dimenticatoio. Questo accade? Sì. Accade questo. Quindi il nostro fondo, che c'è un fondo, quando uno paga questa multa dovrebbe essere andare a coprire questo fondo per i disabili. Invece? Ma questi 30 euro dei privati non si sa dove vanno a finire, lo Stato non paga, quindi sta posto. Quindi per assurdo conviene persino che non li assumano, perché poi i soldi ritornano allo Stato sotto altra forma. Quindi lo Stato incassa sul fatto che uno non diciamo ottempera una sua stessa legge, che cautela categorie deboli, questo è l'assurdo. Sì. Lo Stato in tutti i casi avrebbe una ricchezza, cioè ha una ricchezza a livello lavorativo, a livello proprio di tasse, di cassa, cioè c'è un ritorno, ci sono più contributi previdenziali, siamo un'economia. Ma voi avete mai fatto denuncia, avete mai aperto azioni legali su questa cosa? Allora, guardi, come comitato siamo giovani e stiamo inviando, prima di andare da un avvocato, perché gli avvocati devono essere pagati, perché loro fanno un loro lavoro, noi vogliamo il dialogo. Senta, Antonio Sagliocchi, noi abbiamo esposto il problema. Mi dice chi è il vostro interlocutore principale rispetto a questa? Che lo cerchiamo, la prossima volta parliamo con il vostro interlocutore. Chi è la persona a cui vorreste rivolgere esattamente un quesito o proporre una miglioria rispetto a una legge che è inutile? È un cartellino, è come un fiore all'occhiello di plastica. Siamo bravi, abbiamo una legge che garantisce l'accesso al lavoro ai disabili, ma se voi la fregate la legge non vi succede niente, anzi tutto sommato siamo contenti. Chi sarebbe? Il ministro del lavoro? Chi è la persona? Il ministro del lavoro. Vabbè, è in fase di autospegnimento, ho capito che ha un cellulare dalle batterie carenti. Comunque abbiamo capito. Vediamo se riusciamo in qualche maniera a trovarvi un interlocutore, a portarlo davanti a questo microfono e portare anche lei. In bocca al lupo, ci proveremo. Alla prossima. Quest'anno voi passerete il Natale in famiglia, io lo passerò sul treno. Il mio treno va dal 24 al 25 dicembre, mi ascolterete partire da Parigi su Orient Express. La notte della vigilia probabilmente sarò dalle parti di Venezia, mentre il 25 a pranzo voi mangerete il cappone, io arriverò a Istanbul. Gianluca Nicoletti vi aspetta con il treno VA, speciale natalizio, sull'Orient Express, la vigilia alle ore 20 e il giorno di Natale alle ore 12, su Radio 24. Ecco, ho voluto chiudere questa puntata, che è una puntata che fa parte comunque di un impegno che è molto serio, molto profondo, che noi sentiamo con grande intensità, proprio per alleggerire, visto che è Natale, e anche la sofferenza, anche la diversità, anche il sentirsi in qualche maniera ai limiti della cosiddetta società civile può creare un maggiore disagio, con qualcosa che abbiamo pensato di fare per farvi passare, se possibile, un Natale, per quanto noi non abbiamo possibilità di cambiare le cose, ma lievemente più sereno e più lieto. Io partirò adesso, al finire di questa trasmissione, per prendere un treno che comincerà a raccontarvi il mio viaggio consueto della domenica. Chi mi ascolta è il treno VA, sa che io la domenica la passo viaggiando in treno, conoscendo persone, facendomi raccontare storie. Trovo che non esista un non luogo migliore come il treno, che è in continuo movimento, perché le persone si aprano, raccontino le loro storie. Beh, questa volta abbiamo deciso a Radio 24 di fare qualcosa di diverso. Invece che un improbabile percorso fatto in un saliscendi di stazioni nel nostro paese, partirò da lievemente più lontano. Partirò da Parigi e vi accompagnerò mentre voi preparerete la sera dell'attesa della vigilia di Natale, continuerò a viaggiare tutta la notte. Voi avrete già probabilmente scartato il regale, vi sarete fatti gli auguri, quelli che hanno una pratica religiosa reale e concreta saranno già andati a messa, tornati, saranno ingozzati probabilmente. Io continuerò a viaggiare. Auguri a tutti, io parto in treno.